i lavoratori a progetto che attualmente stanno lavorando dentro, che io li chiamo schiavi a progetto perché guadagnano 3,50 euro all'ora. Sono queste le persone che vogliono riportare praticamente tutti i lavoratori a queste condizioni. E cagli sciocumanna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, se ne ammendo sulla quanti sorda fanno con la nusi, dalla mienda fanno ambressa, dicio stai o sono vai. Articolo 1 e mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, ma vi giuro è solo verità. Qua, in quest'Italia dove vivo, non mi riconosco, sono sottopagato e devo tenermi stretto il posto. Work to life or life to work, si dà la mienda che lo cancella un culo a chi dal work. E poi ti promettono una crescita, ma intanto vieni a lavorare pure sabato e domenica. E chi l'ha detto che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro? Non ha messo in conto che il lavoro è troppo poco, e un cittadino come fa a votare chi governa se chi governa lavorare non sa? Guai e cagli sciocumanna non ha faticato mai, perché loro non sanno come campano operai, se ne ammendo sulla quanti sorda fanno con la nusi, dalla mienda fanno ambressa, dicio stai o sono vai. Guai e cagli sciocumanna non ha faticato. Queste prove tecniche di trasmissione 11 ottobre del 2023, anche per questa sera qui su Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, e per chi volesse ascoltarci con la cara vecchia radio 87.9. Andremo avanti sino alle 22.30, presumo che anche per questa sera non ci sarà 25 o'clock, almeno io non ho notizie. E allora vado rapidamente a salutare i numerosi affezionati già connessi, Maya che ci sta ascoltando in Umbria, Tabula Rasa, Cortina d'Ampezzo. Un saluto a Des De Carlo from Boston, Alberto Cripper di MDMA, Jessica in Sicilia, Anna qui a Roma, un grosso bacio a lei, Tiziano, Zeno Farinacci di Pigreco, un saluto a Ernesto Panico Brusati, Cecilia Miradoli di Pindar, Venusa Zozzetta Stramonio, fedelissima anche lei, Massimo Di Latina, anche se vedo, leggo, bloccato qui a Roma. Marco Milanesio di Disordine non solo, Antonio Zoviet del progetto Omicidio, il medico della peste. Un saluto a Gianluca Becuzzi, Like Awake. Vado anche a salutare, impegnato con la cena, Giuseppe Verticchio di NIM. Noi andiamo alla 8 Tower Records, una delle tante etichette, delle tante attività del buon Raffaele Pezzella. Nel 2023 ha stampato sia con questa label sia con la Nesplay Sounds Group, la K Records, la solita mole incredibile di lavori, compilazioni, artisti vari. Questa è uscita proprio all'inizio del 2023 e si chiama Deep Red, a tribute to the cinema o Dario Argento. Deep Red, profondo rosso. Quindi il tributo che tanti musicisti, molti conosciuti in questo spazio, hanno donato appunto come tributo vari brani dedicati proprio all'attività di questo grande artista. E allora, bando alle ciance, cominciamo con le prime tre tracce, abbastanza brevi. La prima di Michael Bonaventure, che ci siamo gustati tutte queste settimane con il suo ultimo lavoro Works 2018-2023. Lui spetta l'apertura dal nome Intro Red Mirror. Ci sarà poi l'inglese Grey Frequency con Tanz Academy e poi lo svizzero Joel Gilardino con Whatever Remains. Thank you. Allarga dunque la platea di chi ci sta ascoltando. Ovviamente mi fa piacere. Saluto Marcio Gronge. Saluto Giovanni Lisi di Cordi Cinti Serpente, Enrico Ponzoni di Sokun Shibutsu Project, che ci ascolteremo più avanti. Jean-Claude Aubertot, affezionatissimo anche lui. Abbiamo anche all'ascolto Marco Mascia di Progetto Sonoro dalla Sardegna. Tanti artisti a noi noti che danno lustro a questa interessante compilation, ricordo il nome, Deep Red e Tribute to the Cinema of Dario Argento. Quindi mi sembrano chiari gli intendimenti, un tributo al maestro del cinema, diciamo, di un certo tipo di cinema. Quindi troveremo Michael Bonaventure, come abbiamo già sentito, anche in un altro episodio. Avremo Rapun, Gioè Girardini, che abbiamo già ascoltato. Abbiamo Gianluca Becuzzi, guarda un po'. Marolino Stancati, anche Dario Arrighi, Cristiano Bocci, Sara Capo Fontana e Sara Lepore. E quindi pian pianino ci ascolteremo gran parte delle tracce contenute in questo lavoro. E saluto anche Lucia Cagliazza, grande artista italiana, Lupsi, che ho scoperto grazie a Raffaele Pezzella ormai qualche anno fa. Ricordo l'invito per la sottoscrizione per questa radio, sia tramite il conto corrente postale, carta di credito, bonifico, eccetera, cose che si possono trovare nel sito della radio stesso. Saluto anche la Furnasetta, progetto sperimentale italiano, probabilmente all'ascolto. Saluto Simonetta. E l'abbiamo nominato e salutato prima il nostro caro Ernesto Brusati. E lo mettiamo in mezzo musicalmente grazie a Panico da Palcoscenico, il suo ultimo lavoro con il nome Nel Mai, 4 tracce, di cui 3 abbastanza lunghe. E l'ultima si chiama John Cale Non Abita Più Qui, di ben 16 minuti. Oggi ce ne ascoltiamo circa metà. era dunque la prima parte, già sono 8 minuti quelli passati. Questa John Cale non abita più qui, estratta da Nel Mai, ultima fatica di Panico da palcoscenico di Ernesto Brusati. Stratificazioni direi molto vicine a ciò che faceva Atrax Morgue negli anni passati. Benvenuto a Flavio Derbecante e Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster. Grande live lo scorso sabato qui a Roma. E progetto No Name con Dario Arrighi e Sara K.O. Fontana, che ho già menzionato nel caso di Deep Red. Peraltro Bicuzzi ci segnala prontamente anche un nuovo lavoro di Joel Gilardini. Eccolo qua, Gianluca Becuzzi. Un doppio elegante come formato, CD nero con una mano, ed era la vecchia copertina di We Can Be Everywhere, riveduta e corretta e allargata con un secondo CD di nuovi brani. Noi stiamo ancora focalizzando il nostro interesse sul primo CD di 9 anni fa. E questa sera è il turno di Fairer Than Ever e In Black 2. Anche questa sera abbiamo dedicato parecchi minuti all'arte di Gianluca Becuzzi in questa circostanza da We Can Be Everywhere, dove prevalgono i tappeti, diciamo, elettronici, che giustamente sono stati paragonati, secondo me, anche a certe movenze dei Panasonic. E Like a Week, altrettanto giustamente, dice: prima che fosse preso in ostaggio delle chitarre Doom. E sarà infatti interessante paragonare questo album a Black Mantra, che presto ascolteremo qui. Un album Doom sicuramente, ma altrettanto sicuramente molto tribale ed esoterico. Salutiamo Wurnus Island, Simone Scalise di Audio Chaos, la Dark Wave calabrese. Barbara Caridi, la salutiamo. Altra eminenza grigia della scena italica è Omicidio di Antonio Zoviet. E in queste settimane ci siamo sollazzati con frequenze di morte, ma il suo profilo Bandcamp è ricco anche di altri frammenti musicali di livello eccelso. E questa sera ce ne ascoltiamo altri due, ossia The Demons of Annalise Michel e Stuporus Catatonia. I'm gonna see you. presenting three patients showing characteristic symptoms of stuporous catatonia. These patients have been hospitalized for 5 to 15 years, and their stupor is not as complete as it was during the acute stages of their illness. The behavior and attitude of these patients, however, has not changed for several years. The leading symptom is immobility and lack of activity. Most of the time, they seem to be oblivious of their environment. Their faces are fixed, and changes of expression, if they occur, are usually due to fantasies or voices which they hear in hallucinations. Other typical symptoms of this condition are negativism, mutism, waxing flexibility, automatic obedience. We will show you these patients first for some time without stimulating them directly, other than by the camera and light. What is so funny? Let me show you a monkey. Ray. Lo so che Antonio Zoviet arrossirà in questo momento, ma io insisto nel dire che omicidio rappresenta two mothers. As you can see, diciamo tra un'eredità degnissima, un'eredità degnissima del grande e scomparso Marco Corbelli. Credo che omicidio sia una delle derivazioni più importanti di quel verbo e di quel modo di porsi nel campo dell'industrial noise. Un saluto a lui, un saluto a Firenze e anche la prossima settimana direi che ci possiamo ascoltare, se voi non siete contrari, qualcos'altro ancora di omicidio. I più attenti avranno notato come anche questa sera c'è molto materiale italiano e quindi è ora di operare uno stop. Mi stoppo per andare in Spagna da Etica Machinal, sottobosco iberico di tradizione molto affine, no, molto magari no, ma affine per certi aspetti agli splendor geometrico. Questa è Linea Stupida, una cassetta uscita sul fine degli anni 80, un progetto che ha anche un sfizioso profilo, diciamo, politico, se uno va a vedere qualche titolo, soprattutto su YouTube. E questa sera ci ascoltiamo è l'Inno de los Perforadores de Marmo e A Saber. Certainly one thing we mean is that We'll be right back.